E io a chi dedicherò il mio candelaio? A chi ti piace che io intitoli il mio bel paraninfo? A chi invierò quel che dal sirio influsso celeste mi han fatto piovere nel cervello le stelle fisse e nelle orecchie interne m'han soffiato i sette lumi erranti? A chi si è voltato, a chi riguarda, a chi prende la mira? A sua santità? No. A sua serenità? No. A sua altezza signoria illustrissima e reverendissima? Non... no, no. Non è principe o cardinale, re, imperatore o papa che mi levarrà questa candela di mano in questo solennissimo offertorio. A voi tocca, a voi si dona. E voi? O l'attaccarrete al vostro gabinetto o la ficcarrete al vostro candeliero, in superlativo dotta, saggia, bella e generosa mia signora Morgana. Voi, coltivatrice del campo dell'animo mio, che dopo aver attrite le glebe della sua durezza, con acqua divina m'abbeveraste l'intelletto. Desperatamente ardo e sfavillo, amor mio, eccovi la candela che vi vien porgiuta per questo candelaio, che da mesi parte, la quale in questo paese ov'io mi trovo, potrà chiarire alquanto certe ombre delle idee, le quali in vero spaventano le bestie e come fossero diavoli danteschi fan rimanere gli asini lungi addietro. Ricordatevi, signori, di quel che credo non bisogna insegnarvi: il tempo tutto toglie e tutto dà. Ogni cosa si muta, nulla s'annichila. Con questa filosofia l'animo me s'aggrandisse e me si magnifica l'intelletto. Però, qualunque sia il punto di questa sera che aspetto, se la mutazione è vera, io che so nella notte aspetto il giorno, e quei che so nel giorno aspettano la notte. Tutto quel che è, o è qua o là, o vicino o lungi, o presto o tardi, o adesso o poi, godete dunque, e si possiede, state sani ed amate. Amate chi vi ama. Messer sì, ben considerato, sì, ben appuntato, sì, ben ordinato. Forse che non ho provetato io che questa commedia non si sarebbe fatta questa sera. Quella bagassa che è ordinata per rappresentare Vittorio Carubina ave non so che mal di madre. E colui che ha da rappresentare il Bonifacio è imbriaco, che non vede ciel né terra da mezzo di inqua, e come non avesse da far nulla non si vuole alzar di letto. E a me è stato commesso il prologo. E vi giuro che tanto intricato e tindiavolato che son 4 giorni che vi ho sudato sopra e di e notte, che non bastan tutti i trombetti e tamburini delle muse puttane dell'icona a ficcarmene una pagliusca dentro la memoria. Or va, fa il prologo, sì, battel, di questo barconaccio dismesso, scasciato, rotto, malimpeciato, che par che sì, stato, per forza tirato dal profondo abiss, da molti cantigli entra l'acqua dentro, non è punto spalmato, e vuole uscire, vuol farsi in alto mare, lasciare questo sicuro porto, far partita dal molo del silenzio. Lui, l'autore, se voi lo conosceste, direste che aveva una fisionomia smarrita, par che sì, sempre in contemplazione delle pene dell'inferno, un che ride sol per far come fa gli altri. Per il più lo vedrete fastidito, restio bizzarro, non si contenta di nulla, ritroso, al sangue. Non voglio dir di chi lui e tutti questi altri filosofi, poeti, pedanti. La più grande nemica che abbino loro è la ricchezza. E beni, dei quali, mentre col loro cervello fanno notomia, per tema di non essere da costoro da dover sbranate, squartate, dissipate, e fuggono come fossero 100.000 diavoli. Tanto che io, con servirsimi il canaglia, ho tanta della fame, ma tanta della fame, che se me bisognasse vomire, non potrei vomire altro che il spirit. E se me fosse forza di cacare, non potrei cacare altro che l'anima mia, come una piccata, sì. In conclusione, io voglio andare a farmi suora. E chi vuole fare il prologo, se il faccia. Colui che ha da rappresentare è imbriaco. E lei? Dove è ita quella furfante scena da bastonate? Come non si vuole alzar di letto? Dov'è quella bagassa? Deve fare il prologo! Signori! Signori! Signori... Signori e signore, la commedia questa sera sarà senza prologo. E non importa perché non è necessario che vi sia. La materia, il soggetto, il modo ed ordine e circostanze di quella, io vi dico che vi si faranno presenti per ordine e vi saranno poste avanti gli occhi per ordine. Questa è una specie di grande tela, che ha l'ordimento e tessitura insieme. Chi la può capire, la capisca. Chi la vuole intendere, l'intenda. Ma non lascerò per questo di avvertirvi che dovete pensare di essere nella regalissima città di Napoli, vicino al seggio di Nilo. Questa casa che vedete qua formata per questa notte servirà per certi barri furbi marioli. Guardatevi pur voi che non vi facciano vedovi di qualche cosa che portate addosso. Qua costoro stenderanno le sue rete e zara a chi tocca. Io mi assicuro che li vedrete tutti i personaggi. Il candelaio, Ideste Messer Bonifacio e Carubina, moglie. La ruffiana Lucia che per le molte faccende bisogna che non poche volte vada vegna. La signora Vittoria, Gian Bernardo il pittore e Scaramurè che fa del necromanto. Per questi contorni, non so per quale occasioni, molto spesso si va rimenando un solennissimo pedante detto Manfurio. Conoscerete Marta, moglie di Bartolomeo, e per un passatempo vi si farà presente barra speciale. In Marca e Cocorvizzo contemplerete, ma soltanto in parte, la destrezza della mariolesca disciplina. Considerate, chi va, chi viene, che si fa, che si dice, come si intende, come la si intende, o come anche la si potrebbe intendere che, certo, contemplando queste azioni e discorsi umane, col senso d'Eraclito o di Democrito, avrete occasione di molto o ridere o piangere. Eccovi, avanti gli occhi, ociosi principi, vani pensieri, frivole speranze, scoppiamenti di petto, scoverture di corde, falsi presupposti, alienazioni di mente, poetici furori, offuscamento di sensi, turbazione di fantasia, smarrito peregrinaggio di intelletto, somenze intempestive e gloriosi frutti di pazzia. Vedrete in un amante sospir, lacrime, sbadacchiamenti, tremori, sonni, rizzamenti ed un cuor arrostito nel fuoco d'amore, pensamenti, astrazioni colere, malinconie, invidie, querele e men sperar quel che più si desia. Qui troverete all'animo ceppi, legami, catene, cattività, prigioni, eterne ancor pene, martiri e morte. L'archiero fare tratto cieco e tignudo, l'oggetto poi del cuore, un cuor mio, mio bene, mia vita, mia dolce piaga morte, mia nemica, mia dolce guerriera, versaglio sol di tutti i miei pensieri, crudo cuore, salda colonna, dura pietra, petto di diamante, Dio, nume, poggio, riposo, speranza, fontana, spirito, tramontana, stella, ed un bel sol che all'alma mai tramonta. Vedrete una di queste femmine, sguardi celesti, sospiri infocati, acquosi pensamenti, terrestri desiri e aerei fottimenti. Con riverenza delle caste orecchie, questa è una che se lo piglia, con pezza bianca e netta di bucata. Vedrete un'altra di queste femmine, priora delle repentite per l'omissione di peccati che non fece al tempo che era verde, adesso dolente come l'asino che porta il vino. No, è un'angela, un'ambasciadora, segretaria, consigliera, referendaria, novellaria, venditrice, tessitrice, fattrice, negociante e guida. La mercantessa di cuori, una ragattiera, che la compra e la vende a peso, misura e conto. Quella che intrica e strica, impiaga e sana, sconforta e riconforta, nodo che lega, vischio, cattacca, chiodo, che coppia. Vedrete ancora la prosopopeia e maestà d'un uomo masculini generis, un che vi porta certi suavioli da far sdegnare un stomaco di porco o di gallina, un instaurator di quel lazio antiquo, un emulator demostenico, un che vi suscita tullio dal più profondo e tenebroso centro. Eccovi presente un'acutezza da far lacrimar gli occhi, grecciare i capelli, stupefare i denti, petar, rizzar, tossire e starnutar. Eccovi un di compositor di libri benemeriti di Repubblica, postillatori, glosatori, costruttori metodici editori, scolettori, traduttori, interpreti, compendiari, dialetticari, novelli, apparitori, con una grammatica nuova, un dizionario nuovo, un lexicon, con epigrammi greci, ebrei, latini, italiani, spagnoli, francesi, posti in fronte libri. Ah, ma quanto campeggia bene! Mi par veder tante perle margherite in campo d'oro, un discorso latino e mezzo l'italiano, un discorso greco e mezzo del latino, e non lasciar passare un foglio di carta dove non appaia almeno una dizionetta, un versetto, un sutil concetto d'un peregrino carattere et idioma. Ahimè, che mi danno la vita quando o a forza o a buona voglia e parlando e scrivendo fanno venire a proposito un versetto d'Omero, d'Esiodo, uno straciulin di Plato o Demostenes greco. Quanto ben dimostrano che essi son quelli soli ai quali Saturno ha pisciato il giudizio in testa. Le nove damigelle di Pallade, un cornucopia di vocaboli, li han scaricato tra la pia e dura matre, e però è ben conveniente che s'invadino con quella lor prosopopeia, con quell'incesso gravigrado, busto ritto, testa salda ed occhi in atto di una modesta altiera circumspezione. Voi vedrete un di questi che mastica dottrina, olfaccia opinioni, sputa sentenze, minge autoritadi, eructa arcani, exsudachiari e lunatici inchiostri, semina ambrosia e nectar di giudici da farne la credenza a Ganimede e poi un brindes al fulgurante Giove. Vedrete un pubercola sinonimica, epitetica, pisoteorio, suppositorio, bidello, di Minerva, mostante, di palla, di tromba, di mercurio, patriarca di musi e delfino del regno apollinesco. Poco mancò che io non dicesse polledresco. Vedrete, vedrete ancor, ma soltanto in confuso tratti di marioli, stratagemme di barri, imprese di furfanti. Quindi procedono febbre quartane, pensieri manchi di peso, sciocchezze traboccanti ed intoppi baccellieri. Oltre il voler che spinge, il saper che appressa, il far che frutta. In conclusione, vedrete in tutto non esser cosa di sicuro, difetto abbastanza, poco di bello e nulla di buono. Addio. Prima che parli bisogna che mi scusi. Io credo e se non tutti, la maggior parte almeno mi diranno: dove mai vedeste commedia uscir con una bidella? E io vi rispondo: prima che ci fossero commedie, dove mai furon viste commedie? E voi, dove mai foste visti voi prima che vu fuste? E pare ad voi con un soggetto come questo che vi si fa presente questa sera non deve venir fuori e comparire con qualche privilegiata particolarità? Un eteroclito babbuino, un natural coglione, un moral menchione, una bestia antropologica, un asino anagogico come questo, se non me lo fate degno lui una bidella. E volete che io vi dica chi è lui? Volete lo sapere? Desiderate che io ve lo faccia intendere? Costui è, ve lo dirò piano, il candelaio. Volete che io ve lo dimostri? Desiderate vederlo? Eccolo! Fate piazza, date il luogo, ritiratevi dalle bande se non volete che quelle corna vi facciano male, che facciano fuggire le genti oltre i monti. Mi pare udire i personaggi. Della signora Vittoria discorre tra sé medesimo ed accorgendosi che non possea reciprocarsi l'amore pone la sua speranza nella vanità delle magiche superstizioni per venire agli amorosi effetti e per questo va a trovare Scaramouré che gli era stata descritta efficace maga. L'arte, l'arte, l'arte, l'arte, l'arte, l'arte, l'arte, l'arte, l'arte supplisce al difetto della natura, Bonifacio. Or poi, cala malora, non posso far che questa traditora, mamma, o che almeno mi remiri con un simulato amorevole sguardo d'occhio, chissà, forse quel che non amossi le parole di Bonifacio, l'amor di Bonifacio, il veder spasmante Bonifacio, potrà essere forzato con questa occolta filosofia. Si dice che l'arte magica è di tanta importanza che contra natura fa ritornarli fiumi addietro, fissare il mare, mugire i monti, intonar l'abisso, proibire il sole ed espiccar la luna, sveller le stelle, togliere il giorno e far fermar la notte. Crudo amore, essendo tanto ingiusto e tanto violento il regno tuo, che vuol dir che perpetua tanto? Perché fai che mi fugga quella che io stimo et adoro? Perché non è lei a me come io son così strettissimamente a lei legato? Si può immaginar questo? Che sorte di laccio è questa? Di due fan l'un incatenato all'altro, e l'altro più che vento, libero e sciolto. Credo ch'altri mi veggano pensoso ed astratto, attonito, smarrito. Dicono, vego ben che siete percosso, Bonifacio, vi veggio cangiato di colore, vi compatisco, diavolo. Dunque siete innamorato? Dunque qualche umore flematico o colerico o sanguigno o melancolico, non so qual sì quest'umor cupidenesco, vi è montato sulla testa? Mi maraviglio, miser Bonifacio. Voi avete una bellissima mogliera, giovane, di 25 anni, più bella della quale non è facile trovare in Napoli, e siete innamorato? Ahimè, che io son troppo crudamente preso dagli sguardi di Vittoria. Non siam come le bestie, c'hanno il coito servile solamente per l'atto della generazione. Io, miser Bonifacio, ho vissuto da 42 anni al mondo talmente che comulieribus non sum coinquinato. Giunto che fui a questa etade, nella quale cominciava ad aver qualche pelo bianco in testa, allora fui preso dall'amor di Carubina a mia moglie. Questa mi parve tra tutte le altre belle la bellissima. Questa mi scaldò, questa mi accese in fiamma talmente che son divenuto esca. Or, per la consuetudine ed uso continuo tra me e lei, quella prima fiamma essendo estinta, il cuor mio è rimasto facile ad essere acceso da nuovi fuochi. Gli occhi della signora Vittoria. Ecco Lucia. Io men bo. Compare Lucia, ruffiana, con un presentuccio che Bonifacio mandava, e ne fa notomia e si dispone a prendere la decima. Ah, che le si donai pan con la balestra, Bonifacio un male in faccia, bufalo d'India, asino di terra d'Otranto, menchione, pecora d'Arpaia. Oh, e l'ha confessato ogni cosa senza corda per fanfalucche, eh? Vedete con qual proloquio ha saputo dire che è innamorato e chi è la sua dea, il malan che Dio li dia e come, dove e quando. Oi, oi. Ai, me, sono stanca. Voglio riposarmi qua tutta questa notte. Non la voglio maldire, ma sono stata a far la guardia in piedi e a pascermi di fumo di rosti, odor di pignatta grassa. E io sono come il rognone, misera me, magra in mezzo al sevo. Ora pensiamo ad altro, Lucia. Poiché sono in loco dove non mi sente alcuno, voglio contemplare che cose sono queste che Messer Bonifacio manda alla mia signora Vittoria. E son versi, in fede mia. Costui Bonifacio è diventato poeta. O leggiamo. Ferito mai, o gentil signora, il mio cuore, e mi hai impresso all'alma gran dolore, e se non me il credi, guarda il mio colore, però ho voluto essere della presente autore, spento di tue bellezze dal gran splendore, a ciò comprendi per di questo tenore, che se non soccorre il tuo Bonifacio, lui more. Di dormire, mangiare e bere non prende sapore, non pensando ad altro a te tutte l'ore, smenticato di padre, madre, fratelli e sore. Bella conclusione, sì. Belli propositi, appunto sottili come lui. Io per me di rima non mi intendo, pure dico due cose. L'una, che i versi sono più grandi degli ordinari. L'altra, che sono fatti a suon di campana e canta sinino, e sempre toccano alla medesima consonanza. Ma voglio partirmi di qua, per trovare più comodo luogo, dove io posso prendere la decima di questo presente, e infine bisogna ancora io fia partecipe dei frutti della pazzia di Bonifacio. Dove Bonifacio se ne viene tutto glorioso per certo suo poema di Nova Cola in onore e gloria della sua dama Vittoria, nella qual festa fu ritrovato da Gian Bernardo pittore, ma lo distrasse il pensiero di un ritratto ed il pensier sopra un dubbio che gli lasciò Gian Bernardo nella mente. Rimane perplesso sull'enigma perché, o più o meno, intende il termine candelaio, ma non molto può capir che voglia dir orefice. Buon dì e buon anno a voi, miser Bonifacio. Avete fatto alcuna buona fazione oggi? Oggi, caro pittore, ho fatta cosa che giammai feci in tutto tempo di mia vita. Dove mai è stato composto un simil sonetto? Leggi il Petrarca tutto intiero, discorri tutto l'Ariosto, non troverai un simile. Tutti i versi, dal primo all'ultimo, finiscono con desinenza della medesima voce. Ah, voi dite di gran cose, Bonifacio, ma è possibile che quello che hai fatto oggi abbi potuto far ieri o altro giorno, o voi o altro che sì, o che per tutto tempo di vostra vita possiate fare quel che una volta è fatto. Così, quel che facesti ieri non lo farai mai più. Ed io mai feci quel ritratto che ho fatto oggi, ne manco è possibile che io possa farlo più. Or, lasciamo queste vostre sofisticarie, mi avete fatto sovvenire del ritratto, ne voglio un altro di vostra mano. Che lo volete donare a qualche vostra signora per memoria di voi? Basta, basta, sono altre cose che mi vanno per la mente. Ah, è un buon segno quando le cose vanno per la mente. Guardati che la mente non vada essa per le cose, perché potrebbe rimanere attaccata con qualche tuna di quelle, ed il cervello la sera indarno l'aspetterebbe a cena. E poi bisognasse far come la madre de famiglia, che andava cercando lo intelletto con la lanterna. Quanto al ritratto, io ve il farò. Sì, ma per vita vostra, fatemi bello. Non comandate tanto se volete essere servito, se desiderate che io vi faccia bello, è una. Se volete che io vi ritragga, è un'altra. Di grazia, attendete a far cosa buona, che io per questo verrò a ritrovarvi in casa. Venite, venite. Venite pur quando vi piace, Bonifacio. E non dubitate di cosa buona dal canto mio. Attendete pur voi a far bene dal canto vostro, perché... Che vuol dir perché? Voi, Bonifacio, lasciate l'arte antica. da candelaio. Volete diventar orefice? Dio vi dia quel che desiderate, caro mio pittore! E a voi, Bonifacio, vi dia quel che vi manca. Mentre Bonifacio dimora nel proprio pensiero, ecco Scaramurella maga, la quale, dopo aver fatte capire a messer Bonifacio certe sue pappolate, lo lascia in speranza d'accapar il tutto. Venus retrograda in segno mascolino et hoc fortas in geminibus vigesimo settimo grado oporte d'advocare settentrionales averte oculus tuus. Ben trovato, messer Bonifacio. Siate la molto benvenuta, eccellentissima e dottissima Scaramurè, speranza della mia vita appassionata. Signum affecti animi. Sì, come io vedo, voi siete innamorato. Sì, vostra signoria, non rimedia il mio male, io son morto. Ditemi, Bonifacio mio, ditemi, quando fusti vo punto dall'amor di colei, a che sito vista bella, a destra o a sinistra? Oh, a sinistra. E verso mezzogiorno settentrione, oriente o occidente o d'altri luoghi intra questi? Verso mezzogiorno. Basta, basta, qui non bisogna altro. Voglio effettuare il tuo negozio con magia naturale. Non vi date in pace, lasciate la cura a me e dite. La cosa già fu per fascinazione? Fascinazione? Io non intendo. Ed è sta per averla guardata guardando lei anche voi. Ah, sì, signora, sì, fu per fascinazione. Fascinazione si fa per la virtù di uno spirito lucido e sottile, dal calore del cuore generato di sangue, il quale, a guisa di raggi, uscite fuori degli occhi, con forte immaginazione guardando, vengono a ferir la cosa guardata. Il cuore e se ne vanno ad affiggere l'altrui corpo, l'altrui spirito, o di affetto, di amore, o di odio, o invidia, o malinconia, o altro simile geno di passibili qualità. L'essere fascinato d'amore avviene quando, con frequent verbo in che istantaneo intenso sguardo un occhio con l'altro, e reciprocamente un raggio visual con l'altro si rincontra e lume con lume si accopula. Allora si giunge spirito a spirito e il lume superiore inculcando l'inferiore vengono a scintillar per gli occhi correndo e penetrando al spirito interno che sta radicato dentro al cuore e così commuovono amatorio incendio. Dunque, ecco qui la immagine di Cera Vergine fatta in nome di Vittoria, co capelle de femmina. Farrete dunque il fuoco. Poi con la destra mano gettarete la immagine in del fuoco. Direte tre volte Aurundus, Aurundus, Aurundus. Osciterete tre volte con gli occhi chiusi. La farrete tornare al medesimo lato tre volte insieme insieme dicendo Zalra. Zalafar, Zalatar, poi direte piano, piano, Vlafton, Disamis, Festino, Parocco. Il che, tutto avendo fatto e detto, lo carrete la figura in luogo secreto e che non si sordido, ma onorevole e todorifero. questo per il presente basti. Ma bisogna ricordarsi, messer Bonifacio, che io spesi 5 scudi alle cose che concorrono al far della immagine. Avvertite che se voi non la smalmarete bene, questa barca correrà malamente. Bisogna onger bene bene la mano, non sapete? Bisogna procedere per incanti. Incanti, incanti, incanti e con tanti. Comandatemi, che io vi sono affezionatissimo ed ho gran speranza nella prudenza vostra. Verrò, verrò a voi, signora Scaramurè. Venite, venite. Venite presto, Bonifacio, che vi aspetto. Ah, addio, alla buon'ora. E caldamente, Bonifacio, caldamente. Ecco Mastro Manfurio, in nome del diavolo che gli rompa il collo. Dove il dottissimo maestro Manfurio comincia ad altitonare e viene ad essere conosciuto per pecora da pastura e burlato da un mariolo di nome Barra, a cui porge Manfurio una lettera amatoria inviandola a messer Bonifacio, per il cui servizio lui l'aveva composta. Maestro! Io mi chiamo Barra, ma che nome è il vostro? Manfurio. Ah, e qual è vostra professione? L'ufficio vostro? Magistrato, moderato fuori, teneri unghiu, colilenium, malarum, puero, adolescente lorum. Irrosorum, denticolorum, succi plenularium. Carnium, recentis nature, nullius rughe, lacti halitus, roseorum, labellorum, lingule blandule in flore, non in semine, puellis adiaforum. Sum gymnasiarca. Ah, di quanto avete proferito, non intendo altro che quell'asinarca che avete detto al fine. Credo che se io avessi cenato, ti risponderei, maestro, con questo diavolo di parlare per grammuffo catacumbaro o d'elegante latrinesco, ammorbate il cielo e tutto il mondo vi burla. Parlatemi che io vi intenda, vi prego, perché mi fate spasimare. E abbiate pietà di me, parlate italiano, parlate cristiano in nome del tuo diavolo, che ti intendiamo. Io dubito che costui non sia qualche monaco stravestito. No, non sum homo ecclesiasticus. Portate la forma dell'oste in testa. Oh, questo calvitium. No, tu non mi ingannerai, poltrone, con queste parole latine imparate per la bisogna. Tu sei qualche ignorante. Se fossi dotto, non saresti mariolo. Vedete cosa avanzate con le vostre lettere a non voler parlar per volgare. Col vostro latino credevemo che parlassivo come quando si dice la messa. In extasi in profunda trait ipsum admiratio, nec benedigitur latine respect. Messer Manfurio, amenissimo fiume di eloquenza, serenissimo mare di dottrina. Avete voi, signor dottore, qualche bella di vostra composizione? Perché ho gran desiderio avere copia di vostre dottissime carte. Messer Bonifacio ha richiesto che voi li componesse una lettera incentiva e amatoria per la sua amasea vittoria. Ma tra noi, qual è la materia dei vostri versi? Litere, sillabe, dixio, oratio, partes propinque, tremote. No, no, no, io dico no. Qual è il soggetto, il senso ed ordine, il proposito dei vostri versi? E piaccia uno poco di farmeli udire. Oh, forco. Sparco. Vilvifa, inutile, disutile, con fare fatto, col quale nessuno si pensi acquisire, con la quadrilicata l'assunzio, l'antibus sorrabrolario di fare il sos coquinario per il canale emissario. Forcile, priva di esercizio, rinovio penuria, gli orletto, gli orcubicolo, nullo sozzo, voluta preinabile, disabile, gola, luxo, infirmità, incurabile, ventre che sembra di pleie del puzeo, abitator fango incolaluzeo, fauce indefessa, vorante, gutture, logorridissima, arpia, difizio, vulture, ferra, sasse, fuoco, vulva, cupida, ortificio, portenso, ma reputita, nemico il cielo specto la torterreo e no fefo e vino papo in nome del padre e del figlio e dello spirito santo. Ah, bellissimo sottil concetto. Ma ditemi, vi prego, avete speso molto tempo in ordinar questi versi? Siete vi affaticati in farli? Avete vi speso gran cura, gran pensiero? O avete ne destramente presi per non dir mariolati a qualche altro autore? Ne quacquam. Di grazia, benché io non sia atto di essere soggetto alla vostra verga, idest esservi discepolo, potrò forse servirvi in altro, prendendo questa lettera amatoria per Messer Bonifacio e salutandovi, domine magister. Veggio due belle femmine appropriarsi. Addio, tromba di Febo. Quando Vittoria viene fuori fastidita per molto aspettare, discorre sopra l'avaro amor di Bonifacio e sua vana speranza e mostra ad essere inanimata a fargli qualche insapore insieme col finto capitano Birri e Gian Bernardo il pittore. E dove la signora Vittoria spera, col seminare speranze nell'orto di Bonifacio, di tirar messe di scudi nel proprio magazzino. Ma si inganna la meschina, pensando che l'amor le avesse tanto tolto l'intelletto che non avesse Bonifacio sempre avanti gli occhi della mente il proverbio «cazzo in porta e denari in mano». Aspettare non venire è cosa da morire, aspettare non venire è cosa da morire, aspettare non venire è cosa da morire, aspettare non venire è cosa da morire, da morire, da morire, da morire, da morire, da morire, da morire. La gran pecoraggine e la bestialità che io scorgo in Bonifacio mi fanno innamorare di quest'uomo, Lucia. Ora andiate e ringraziatelo da mia parte e diteli che io non posso vedermi sazia di leggere la sua lettera amatoria, i suoi versi, e che in poco tempo che siate stata presso di me, 10 volte, me l'avete veduta cacciare e rimettere nel pet, cacciare e rimettere nel pet. Dateli quante panzanate voi possiete per farli intendere che io li porto un grande amore. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la l'amore. Se depinge giovane put, perché fa l'uomo di più leggero e me grave sentimento come fanciulli. Ma né per l'una né per l'altra via è entrato amore in costui, Bonifacio. Non dico gli avesse a togliere l'intelletto, perché nessuno può essere privato di quel che non ha. Quando mi credevo di guadagnare una dote con l'amor di Bonifacio, sento dir che cerca di affatturarmi con la magia naturale di Scaramure. Scaramure, efficace barra. E potrebbe già mai l'unita forza fatta del profondo inferno, unita con gli spiriti dell'aria e l'acqua, far che io possa amar un che non è soggetto amoroso. Se fosse il dio d'amore stesso, bello quanto si voglia, si sarei lì povero, e colui morto di freddo e tutto il mondo agghiacciato per lui. Adoriamo le sculture, le immagini, ed onoriamo il nome divino scritto. Adoriamo ed onoriamo questi altri dei che pisciano e cacano, drizzando la intenzione e supplice devozione alle loro immagini e sculture. Perché? Mediante queste, premino i virtuosi, innalzino i degni, difendano gli oppressi, dilatino i loro confini, conservino i suoi. Il re, dunque, ed imperator di carne ed ossa, se non corre scolpito, non val nulla. Or che dunque sarà di Bonifacio, che come non si trovassero uomini al mondo, pensa ad essere amato per gli belli occhi suoi. Vedete quanto può la pazzia. Ma non ho tanto tempo da guardare a lui quanto debba aver pensiero dei fatti miei. Io considero che, come di vergini, altre son dette sciocche, altre prudenti, così anco de noi altre che gustiamo dei migliori frutti che produce il mondo. Pazze sono quelle che amano sol per fine di quel piacere che passa e non pensano alla vecchiaia che s'accosta a ratto senza che altri lave gossent insieme insieme facendo di scostar gli amici, quella percuote da vicino e questi te salutano da lontano. Che tempo aspetta, tempo perde. Si aspetta il tempo, signori, il tempo. Aspettare a me. Bisogna che ci serviamo dei fatti altrui, mentre par che questi abbiano bisogno di noi. Mal potrà prendere l'uccel che vola colei che non sa mantenere quello che è in gabbia. Ora torniamo a proposito, Porzia. Benché Bonifacio abbia poco cervello e mala schiena, ha però la buona borsa del primo suo danno, del secondo, ma non m'accade, ma del terzo. Ne devo far conto. Conviene a chi è bella per la gioventù che si saggia per la vecchiaia. Altro n'abbiam l'inverno che quel che raccolsemo l'estate. E ora facciamo di modo che questo uccello con sue piume oltre non passa. Rimasta la signora Vittoria sola, fa di bei castelli in aria. E mentre dunque si pasce di quei venticelli che gonfiano la panza e non nutriscono, sopravviene Barra, che per quel che aveva udito dalla propria bocca di Bonifacio, comincia a tramar qualche bella impresa e si ritira con lei per discorrere come si dovessero governar col fatto suo. Bassovi quelle bellissime ginocchia e piedi, signora Porzia, mi dolcissima, saporitissima, più che zucchero, cannella e sanseverata. Se non fossimo in piazza, non mi terrebbero le catene di Santo Leonardo che io non ti piantasse un bacio a quelle labbra che mi fa morire. Che portate di nuovo, messer Barra? Miser Bonifacio vi si raccomanda. Ed io vi raccomando così, come i buoni padri raccomandano i loro putti ai maestri. Idest, che se egli non è saggio, lo castigate bene bene, e se volete uno che sappia possa tenerlo a cavallo, servitevi di me. E che volete dire per questo? Ah, non lo intendete? Non sapete quel che io voglio dire? Siete tanto semplicetta voi, Vittoria. Io non ho queste malizie che voi avete. E se non avete di queste malizie, avete di quelle, di quelle, di quell'altre. E se non siete fina come posso essere fino io, siete fina come può essere fino un altro. Ora lasciamo queste parole d'avvento e vengamo al fatto nostro. Or, alcuni giorni fa, Messer Bonifacio rimase contristato di certo tratto che io gli feci, ma io non voglio che la cosa rimanga... Che vi ha egli fatto? Che volete voi fargli? Vedi, Orveggio Lucia che viene. Aspettatemi, Vittorio, che parleremo a più bell'agio. Voi dite bene, Barra. Vi aspetto in nostra casa che... Voglio sapere de cose da voi. Barra, ma che lavoro sarà mai vostro, Il gioco dei zingani sarà Lucia. E che le dentro, e che le fora, e che le fora, e che le dentro. E se volete intendere il successo per ordine, credo che voi riderete. Ah, sì, di grazia fatemi ridere. Ce n'ho proprio una gran voglia questa sera. Obbedisco. Lucia. Il marito di Marta era dentro ad attizzare la fornace, a lavorare più dentro, più dentro, più dentro, e io lavoravo dentro con Marta alla prima camera. E questa vecchiazza barba di Cocchiara, richiesta da me se mi voleva far quel certo piacere, mi rispose: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Gagliofo d'un bar, e così vai sovvertendo le povere donnicciane e svergognando tutti i parentadi di te, Tu hai il diavolo in testa, Lucia. Chi ti parla di questo? È forse una sorta di piacere che possono far le donne agli uomini. Dai, seguita, seguita. Ora, Lucia, ascoltami bene. Se lei avesse detto una volta sola no, io non avrei più parlato, facendo rimanere la cosa così lì. Ma perché lei disse più di 12 volte: no, no, no, no, no, no, no, no, non è non, nani nani, non è non, nani nane. Cazzo, dissi intra me stesso, costei ne vuole. E poi le dissi: oh, faccia d'oro fino e tocchi di diamante, tu vuoi farmi morire, Dai, passa oltre ella, e ti rispose. E Marta rispose: vai via, via, via, via, via, via, vai via, via, mal'uomo, via. Ecco, Lucia, se Marta avesse detto una volta sola vai via, forse gli avrei smaltito di quella sicurtà che li tante none none nani nane m'avevano data. Ma perché, ripigliando due volte il fiato, Marta disse più dei 15 volte: va via, va via. Ed io ho udito dire da Mastro Manfurio che le due negazioni affermano, e molto più le tre, come veggiamo per esperienza. Dunque, dissi io intra me stesso, costei vuole danzare a tre piè, e forse che io non gli piantarò un'altra gamba intra le due, a ciò che possa ancora meglio correre. Ora più, ora più. Ho capito, seguita, io voglio tacere sino all'ultima conclusione, poi te che le hai detto? Allora io con una boccuccia piccolina piccolina me li feci udire in questo tenore. Dunque, cor mio, tu vuoi che io mora? E perché vuoi che io mora? Perché ti amo? Che farà dunque dunque t'odio, vita mia? Eccoti il coltello, uccidemi con tue mano, che certo certo morirò contento. No, e lei? E lei? Ma così mi rispose: gaglioffo, disonesto, ricercatore cubiculario, dirò al padre mio spirituale che tu mi hai fascinata, ma tu, con tutte le tue parole, non basterai giammai di farmeti consentire, né con tutte le tue forze giammai verrai a quell'effetto che ti pensi, e se il provassi te il farei vedere certissimo. Credi tu, per essere maschio, di avere più forza di me, cagnazzo, traditore? Se avessi un pugnale adesso ti ucciderei, che non vi è testimone alcuno, né persona che ci vegga. Oh, oh, oh, e te? E che tu l'hai fatto? Lucia, andiamo dentro che te lo farò vedere. No, barra, dite pure fuori, perché dentro non si vede, è buio. Andiamo, Lucia, che batteremo tanto forte il lucido che allumaremo questa candela che sempre porto dentro le brache per le occorrenze. Allumare la posifò di Sant'Antonio. Lasciamo da parte questi propositi, io voglio sapere ella che si mostrava tutta ritrosa, tutta gagliarda, che fece, come va resistito? Ahimè, che alla poverina tutta la forza gli andò dietro via. Parsimi veder la mula dal ciono, che se l'avesse avuta al culla briglia, avrebbe fatto il giorno 100 miglia. Il racconto di costei mi pare simile a quello di un'altra che spunzonava Don Nicola. Alla quale Don Nicola disse: «Se tu me spontoneggi un'altra volta, te il farò». Ed ella: «Ecco, te spontoneggio un'altra volta. Or che potrai fare tu? Che pensi di fare adesso, Don Nicola? Chi è uomo da nulla più di te? Ecco, ti spontaneggio un'altra volta. Or che mi farai tu? Caro Don Nicola, non potrei muovere un sassolino se io non voglio». Ora dimmi, Lucia, che doveva far quel povero Don Nicola? Il buon uomo di Don Nicola dovenne a tale che non so che vena se gli ruppe. Barra! Voi siete uno di quei furbi. Ma ora lasciatemi andare via. Devo rendere certa risposta a Messer Bonifacio. Mi sono purtroppo dimorata a sentir tutte le tue ciance. Tu mi hai fatto far tardi. Addio, sarò Lucia, Scaramurè! Scaramurè! Scaramurè! Appunto voi andavo cercando! Siamo per far di bei tratti questa sera e non saranno senza qualche nostro provitto o spassa almeno. Io mi voglio vestire da Capitan Palma. Voi, Marca insieme con Cocorvizzo, mostrarete di essere sbirri. Staremo alla posta qui vicino, che spero che questa sera attrapparemo Mister Bonifacio all'uscita o entrata che farà dalla stanza della signora Vittoria. E faremo piacere alla signora, ed utile a noi. E faremo utile a noi, e piacere alla signora. Ci prenderemo 1000 spassi, scaramurè. Quanto al fatto di Mister Bonifacio, sarete voi che verrete così a caso ad accomodarlo con far che vi doni qualche cortesia uno scudo, 2 monete, affinché lo lasciate libero per non menarlo in vicaria pregione. Venete dunque quanto prima, scaramurè. Noi vi aspetteremo in casa della signora Vittoria alla buon'ora, scaramurè. Quando Messer Bonifacio avviene ad essere molto persuaso dalle estreme novelle che Lucia gli disse, cioè che per il meno la signora Vittoria gli avrebbe donato il tutto con questo che l'andasse a chiavare per quella sera che altrimenti lei moreva, che per le cose che erano passate per la magica fattura di Scaramurè non fu difficile addonarglielo ad intendere, prendendo ordine di stravestirsi lui come Gian Bernardo il pittore. I Marioli barra Marca e Corvizzo hanno appuntato qualche tela verso di Bonifacio insieme a Crubina, la moglie, la signora Vittoria e messo Gian Bernardo, e trattano adesso con Scaramurè di negociare alcuni fatti col stravestirsi da birri e capitano per fingere di menare Bonifacio in prigione. Io a Bonifacio dirò così: Oh, messer Bonifacio dolce, io non ho tempo di salutarti perché vi bisogna di parlare di soccorrere presto al fatto di questa signora infelicissima. La si muore. La si muore per voi. Io mai vidi amor posser così tanto impeto di femmina, sino al giorno d'oggi. La vi amava, certo, ma da alcune ore in qua non so che fantasia l'abbia presa, che non ha altro in bocca che messer Bonifacio mio, cor mio, viscere dell'anima mia, fuoco mio amore, mia fiamma, mio ardore. Vi giuro che sono 15 anni che la conosco, tanto piccolina, sempre l'ho veduta nell'amore freddissima. Adesso Se voi la verrete, la troverete poggiata sopra il letto, col viso in giù, sopra un coscino, che tiene abbracciato con ambedue le braccia, a dire «Ah, messer Bonifacio mio, chi me ti toglie, chi me ti toglie!» Se io non l'avesse reprimuta, voleva venire a ritrovarvi in casa. Io gli dissi «Folla che voi siete, folla! Voi gli farete dispiacere! Che dirà sua moglie, carubina? Eh? E che dirà tutto il mondo che vi vedrà? Ognuno dirà «Oh, che novità è questa, è impazzata costei! Non sapete voi che egli vi ama?» Gli ho detto io. Siete ben cieche e forsennata se non credete che egli si stimerà beatissimo quando me si udirà dire che voi desiderate che egli venga a chiavarvi proprio questa sera stessa. E poi burla burlando gli dirò: oh, Bonifacio, bisogna non mancare questa sera, atteso che lei non è per mangiare, né per dormire, né per riposare alcuna mente, piuttosto l'amore se la non vi vede. Lo sapete che dovete fare voi ora? Per suo e vostro onore, voi sapete che le vicine sino a mezzanotte le sono sempre affacciate alle finestre, chi va e chi viene e chi va. È dunque necessario stravestirvi, con accomodarvi di una bella biscappa simile a quella di Giovan Bernardo e poi portare una bella barba negra posticcia simile alla sua. Andate presto, Bonifacio. Adesso, con questo medesimo passo, Bonifacio se ne andrà pellegrino, mascheraro. E così, signori e signori, in tal guisa io lo introdurrò dentro la casa della mia signora Vittoria. Oh, alla moglie Carubina dirò tutto, tutta la verità narrata. Lei si stravestirà da signora Vittoria in loco della signora Vittoria, nel letto della signora Vittoria, perché? Perché negli abbracciari noi li faremo fare al buio con Bonifacio, lui venga a conoscerla non per sua propria moglie Carubina, ma proprio per la mia signora Vittoria. Sì, lo so, una bella commedia, sì. Lucia! Vi par che nei gesti e la persona io vi rappresenti la signora Vittoria? Vi giuro, Carubina, per i 15 misteri del rosario che io ho finito di dire proprio adesso, che io medesima al presente mi penso essere con essa lei. Voi, Lucia, farrete che il lume non venga in camera, sintanto che da me non vi si farà segno. Oltre sarà bene di dare qualche sollazzo alla povera bestia prima di tormentarla. Io me li mostrerò tutta infiammata d'amore. E con questo li piantarò dei baci d'orso, lo morsicarrò sulle guance, li dirò: Cormeo, vita mia, non gridate, che saremo uditi. Perdonami, Cormeo, che questo è per troppo amore. Io mi liquefaccio tanto che ti sorbirei tutto, insino all'ossa. E lui, poverino, ci crederà, per la virtù e la forza dell'incanto della sua magia. Poi farò di modo che mi porga la lingua. E quella la voglio premere tanto forte con i denti che non la potrà ritrarre a suo bel piacere. Sì, così io dirò alla mia signora Vittoria: questa è la lingua, potrelli ben gridare, potrelli ben parlare, questa è alquanto troppo dura da fargli uscire tutto l'amore del culo. Lucia, fatto questo secondo atto, io mi mostrerò di volerli concedere l'entrata maestra per una volta, prima che ci colchiamo a letto, ma conciarrò in atto da chiavare. E tosto che lui ha raccacciato il suo codale, farò bene che venghi alla solita porta. Ma prima che giunga l'introibire gloria, voglio apprenderli i testicoli e la verga con due mani e con queste le voglio premere tanto forte e torcerli come torcessi drappi bagnati di bucata. E certo che dolore farebbe perdere la forza persino Arculesso, Oltre è certo in ogni modo voi siete più forte di lui. Allora siate certa, mia cara Lucia, che criderà tanto, che le strida si sentiranno a nostra casa. È peggio per lui se non criderà bene, perché tanto più fortemente sarà strento e torciuto. Quando saranno queste più solenne terze strida, correrete voi di casa con i lumi, e così, tutti insieme, ne conosceremo la verità. Sì, È tutto le bene appuntato. Sì, andate dunque in casa della signora, camminate come sapete, mantenetevi il viso coperto, con il manto. Trattanto io cercherò Bonifacio e lo manderò in casa. Governatevi bene, carovina. Addio, addio. Oh, ecco il pittore. Mi sento Gian Bernardo. Voi siete venuto a proposito. Che hai fatto, Lucia mia? Tutto. Ho fatto tutto. Mister Bonifacio è andato a stravestirsi, a accomodarsi con una bella barba simile alla vostra. Sua moglie, Carubina, adesso, in abito della signora Vittoria, se n'è entrata. Barra vestito da Capitan Palma, in barba lunga e bianca, Marche e Corvizio stravestiti da birra. Tutto. Io l'ho veduti ora. Ho parlato con essi. Io starò in cervello che non mi farò scappare questo morsello di bocca. Hai parlato del fatto mio, Madonna Carubina? Liberamus Domino. Credete io sì tanto o poco accorta? Hai fatto saggiamente, Lucia. Voglio darti un beveraggio, un bacio. Gran mercè. Sì. Io ho bisogno d'altro e di questo. E burlando, Bonifacio e la moglie Carubina tra breve usciranno di casa della signora Vittoria e il pittore bisognerà che abbia modo di intrattenerli. Signore e signori, tutto oggi non mi è apparso un'ora per il pensiero che io ho avuto di fare schiudere queste uova in questa sera. Ogni cosa va bene. Se voi sapeste quanto mi ha bisognato di spirito per far capire a Messer Bonifacio l'amore novello della signora Vittoria e persuadergli che si stravesta così come Gian Bernardo e anche come per ridurre Madonna Carubina a quel che l'è ridotta, mascherata da signora Vittoria, vi maravigliereste assai. Barra è vestito da Capitan Palma in barba lunga e bianca. E Marca e Cocorvizio e Marioli sono accomodati da birra. Resta solo che io faccia avvisato Messer Gian Bernardo che si trovi a tempo e che faccia che tutti gli altri si trovino a tempo. Bisogna martellare a misura quando son più che uno a battere un ferro. A fe di santa temporina ho fatto tutto. E il fatto di Bonifacio mi pare come quello di Colaperillo, che si sentea male e non sapea in quale parte della persona si fosse il dolore. Il medico gli toccava il petto e gli diceva: "Vidol qua". "No". Poi gli tocca la schiena. "Vidol qua". "No". Poi negli reni. "Vidol qua". "No". Poi gli tocca il stomaco. "Vidol forse qua". "No". Al ventre. "Vidol qua". "No". A coglioni. "Vidol forse questi". "No". Il medico disse: "È forse a questa gamba". "Signor no". Vedi di grazia che non fosse a quell'altra. Povero Bonifacio. Come una ceregia tira l'altra, così sogliono fare il più delle volte i guai e gli inconvenienti che appresso l'uno viene l'altro. E poi questi Marioli e Capitano sono Marioli e Capitano proprio come voi. Siete cardinali. E io che parlo sono Papa. Questo male l'ha fatto questa ruffiana strega di Lucia e quest'altra puttana vacca di sua padrona. S'hanno voluto giocare dei fatti miei. Mai, mai più voglio credere a femmine. Manco si venesse la vergine. Poco manc'occhio non dicesse una biastema. Togli via queste scusazioni, scelerato, che io le conosco e ti conosco. Chi è costui che così dritto dritto se ne viene verso di noi? O io sono io, o costui è io, o là messer uomo da bene, o là messer della negra barba, dimmi chi di noi due è io. Io o tu? Non rispondi. Voi siete voi e io sono io. Come io sono io? Non hai tu, Bonifacio ladro, rubata la mia persona e sotto questo abito e t'apparenza vai commettendo di ribalderie. Come sei qua tu? E voi siete Madonna Carubina, voi? Costui com'è che si è fatto Gian Bernardo? Io non lo so. Dicalo lui che sa parlare, t'ave l'età. Io ho mutato abito per conoscere mia moglie. No, tu hai mentito, traditore. Ancora ardisci in mia presenza negare. Orfante, in questo modo tradisci la tua donna che conosco onoratissima. Come, ribaldo, pensi tu scappare dalle mie mani così? Voglio vedere con te ragione di questo abito. Voglio sapere come abusate di mia persona. Di grazia, messer Gian Bernardo, non venemo a termini de ingiurie. Andiamo, andiamo via, Carubina. No, no, ferma, male in faccia, ferma, barro, che tu non mi scapparrai. No, tu non mi impadirrai. No, tu non mi scapparrai. No, tu non mi impadirrai. Olà, olà, alto là la corte, che rumori son questi? All'altra, siate li benvenuti, signori. Vedete che io mi sono incontrato con quest'uomo vestito di mia foggia, camminando con mia moglie. Viene a farne violenza, io mi querelo di lui. Tu sei Bonifacio, tu hai mentito, tu scellerato, e io ti provarò per questo vestimento che porti, che tu sei un falso. E che diavolo, qui stanno due gemini che fanno questione. Questa deve essere qualche solenne imbroglia, Marc, Cocorvizzo, menate le prigioni, tutti, tutti. Signore, non dovete menare in prigione altro che costui, non me. Di grazia, Capitan Palma, non mi fate questo torto, perché io sono persona onorata, io sono Gian Bernardo il pittore, uomo da bene, e questa è la verità che non si può nascondere. E per confirmazione, vedetesi quella barba, è la sua. Dimmi, uomo da bene, è la barba tua questa? Io confesso che è posticcia, ma l'ho fatto per certo disegno per cose che passano tra me e mia moglie. Adesso conosciamo che costui Bonifacio è un falso. Menate dunque lui pregione. E da voi, messer Gian Bernardo, da parte della Gran Corte della Vicaria, comandiamo che domani, ad ore 14, doviate trovarvi avanti il giudice ordinario per la informazione di questo fatto, sotto pena di 150 scudi. Gli errori che accadono son per questa fortuna traditora, quella che ha dato tanto bene a Malefacio e a me l'ha tolto. Questa fa onorato chi non merita, da buon campo a chi non semina, buon orto a chi non pianta, molti figli a chi non può allevarli, buon appetito a chi non ha che mangiare, biscotti a chi non ha denti. Ma che dico io? Deve essere scusata la povera Carubina perché è cieca e cercando perdonare lì beni cava entra le mani, cammina a tastoni e per il più sa abbatta a sciocchi, insensati e furfanti dei quali il mondo tutto è pieno. Per l'avvenire tra me e Madonna Carubina son certo che non bisogneranno tanti studi, problemi, discorsi, ragioni ed argomenti, perché basta esservi una volta abboccati insieme e lei avrà appreso il vostro e voi il suo linguaggio. Occhi se vedono, lingue se parlano, cuori si intendono. Talvolta quel che si concepe in un momento si ritiene per sempre. Le specie della pazzia noi le possiamo prendere da più capi, ma prendendole da questo che di pazzi altri sono indifferenti, altri sono tristi, altri sono buoni. Costui Bonifacio viene ad essere di tutte e tre le cotte. Ha dormito, è indifferente, desto, è tristo, è morto, è buono. perché l'ha preso Madonna Carubina? Dicono perché è pazzo. Sì, secondo il consiglio di quella vecchia lanuta di Madonna Angela, quella è stata la sua consigliera. Quella è la pastora di tutte le belle figlie di Napoli. A costei venne Madonna Carubina un giorno e disse: «Madre mia, vogliono darmi marito, mi si presenta Bonifacio Trucco, il quale ha di che e di modo». Rispose la vecchia: «Prendilo». «Eh sì, ma è troppo attempato». «Figlia, non lo prendere. I miei parenti mi consigliano di prenderlo». «Prendilo. Ma a me non piace troppo». E dunque non lo prendere, io lo conosco di buon parentato. Prendilo. Ma intendo che dà tre morsi ad un fagiolo. No, non lo prendere. Angela, sono informata che aveva un levrier di buona razza. Figlia mia, prendilo. Ma ahimè, ho udito dir che è candelaio. No, non lo prendere. Lo stimano tutti pazzo. Prendilo. Prendilo, prendilo, prendilo, prendilo, Carubina, prendilo, prendilo, prendilo, 7 volte, disse la vecchia megera. Non importa che sii candelaio, non ti curar che di tre morsi ad un fagiolo, no, non ti fa nulla che non piace troppo, non ti curar che sii troppo attempato, prendilo, prendilo, prendilo, perché è pazzo. Riviene la maga Scaramurè, che aveva l'orologio nel stomaco e nel cervello. Andò in vicaria ad impetrar licenza di parlare con Bonifacio e con certe mariolesche circostanze. Viene a persuaderlo che l'incanto aveva per fallo di esso Bonifacio avuto confuso effetto. E dice di voler benegociar la sua libertà con offrire qualche sottomano al capitano. Messer Bonifacio, accostatevi. Oh, misero me, quante confusioni oggi! Vedete che frutti raccolgo di miei amori e di vostri conselli, Scaramurè! Ecco che mi hanno fatto i vostri rimedi! Ecco l'amore di quella puttana! Ecco la malignità di quella ruffianaccia di Lucia, che mi ha fatto credere cose che non mi avrebbe potute dare ad intendere anche il patriarca dei diavoli! Io voglio spendere 25 scudi e farli marcare il volto! Ah, guardati bene, che non è stata la colpa di costei, né della signora Vittoria, né mia, ma la vostra forse. Siete voi certo che quei capelli che io vi dimandai per porli alla testa della immagine erano della signora Vittoria? Son certo che quella bagassa di mia fortuna, i capelli sono di mia mogliera, quelli raccolsi io destramente sabato sera quando si pettinava. Oh, ecco come io ho intesa la verità. Ho dimandato capelli di vostra moglie io. No, io vi dissi in nome del diavolo, io vi dissi capelli de dona e non i capelli di donna indifferentemente. E qual differenza fate voi tra capelli di donna e capelli della donna? Quella che saprebbero fare i putti quando cominciano ad aver l'uso di ragione. Non eravamo noi in proposito di fare la immagine in suo nome, in nome di Vittoria? Ora ecco la maldetta causa che aveva imbrogliato l'effetto dell'incanto. La cera è stata scelta e incantata in nome di Vittoria, la immagine è stata formata in suo nome, i capelli poi erano di tua mogliera. Da qua è avvenuta questa confusione. Tua moglie in casa di Vittoria, tua moglie con vestimenti di Vittoria, Vittoria senza i suoi vestimenti, tua moglie in loco di Vittoria, in casa di Vittoria, il letto di... Oh, adesso sono capace del tutto. Prima non avevo ben inteso. Orsù, basta. Abbiamo troppo discorso circa questo negozio. Vediamo di fare di modo di donare qualche cosa. 4 monete, 2 scudi a costoro ed uscirli dalle mani. Che fingano che siete fuggito o qualche altro partito prendano. Perché poi le altre cose noi facilissimamente potremo accomodare. Tra tanto e per finire, com'è costume di quei che ardentemente amano, Gian Bernardo cerca di troncare il legame del scrupolo che Carubina, insolita mangiar più d'una menestra, avesse potuto avere, della quale è più da pensare che desiderasse più d'esser vinta che di vincere. Vita mia, io son tale che per vostro servizio mi getterei in mille precipici. Or poi che mia fortuna e buona sorte ha permesso che io vi sia così appresso come vi sono, vi prego, per il fervente amore che sempre vi ho portato e porto, che abbiate pietà di questo mio cuore. Io sono quello che vi amo. Io sono quello che vi adoro. Che se m'avessero concesso lì i cieli quello che a questo sconoscente e sciocco di Bonifacio, che non stima le mirabili vostre bellezze, han conceduto, giammai nel petto mio scintilla d'altro amore avrebbe avuto luogo, come anche non ha. Priegovi, dolce mia diva, se mai fiamma d'amor provaste, la quale in petti più nobili, generosi ed umani suol sempre avere più luogo, che non prendiate a mala parte quel che dico, e non credete né caschi giammai nella mente vostra che per poco conto ch'io faccia del vostro onore, per cui spargerei mille volte il sangue tutto, io cerchi quel che cerco da voi. Ma per appagare l'intenso ardore che mi consuma, messer Gian Bernardo, io ho ben tenero il cuore, facilmente credo quel che dite, benché sino in proverbio le lusinghe di amanti, però desidero ogni consolazione vostra, ma dal canto mio non è possibile, senza pregiudizio del mio onore. Sì che si vogli degli uomini, e che dirrete in cospetto degli angeli e dei santi che vedono il tutto e ne giudicano. Questi non vogliono essere veduti più di quel che si fan vedere. Non vogliono essere temuti più di quel che si fan temere. Non vogliono essere conosciuti più di quel che si fan conoscere. Speranza dell'anima mia, fate, vi prego, che non invano v'abbia prodotta così bella il cielo, il quale, benché di tante fattezze e grazie vi sia stato liberale e largo, è stato però dall'altro canto a voi avaro, con non giungervi ad uomo che facesse caso di quelle, e ad me crudele col farmi per esse spasimare e mille volte il giorno morire. Vita mia, non sarà possibile che sia in punto leso il vostro onore degnandovi di darmi vita. Di grazia andiamo in luogo più remoto e non parliamo qui di queste cose. Andiamo. Andiamo via. Dolcezza mia.